aprile perché la vedi fuga, perché gli stadi spiriti gli stanno girando dentro Viale, stanno entrando sia da San Giovanni che da Re di Roma, quindi gli stanno girando proprio dentro Viale. Noi in questo momento siamo in Viale di Roma, e cioè, no, scusate, nella piazza Re di Roma, e vediamo tutto qua, praticamente ci sono gli sbiriti da una parte e dall'altra. Quindi non c'è più via di uscita da San Giovanni? Esatto. Va bene, grazie. Appena sai altro, chiamaci immediatamente, d'accordo? Sì. Anzi, guarda, se potete dire qualche via di fuga, ancora meglio, perché qua tanta gente non conosce la situazione, non conosce la città, e non sa dove cazzo andare. Ok, ti chiamiamo immediatamente e te lo diciamo. Ok, grazie. Ciao.